volo molto in alto, non vedo niente, non si vede un accidente da qui. Lei ha gli occhi a mandorla e una faccina piccola, così, e con i suoi fratelli, piccolina come quelli, vuoi vedere la foto? Una pallina, qualcosa sta ancora volando, e lentamente si avvicina. Ogni piccolo movimento spara, prima che l'altro faccia lo stesso con te. Ogni piccolo sentimento spara, chiedersi niente, ma stavolta voglio vedere chi è, chi è. Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, il rock and roll. Era una macchina negra, Washington, cosa vai a fare laggiù? Solo un sasso, non si vede un casco, non è rimasto in piedi più niente, nemmeno là. Chissà se mi sta ascoltando. Pensando, eccolo lì che si avvicina.